Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno, oggi parliamo di lei, della nostra pancia. Io mi chiedo, forse ve lo chiederete anche voi, perché al mattino è così in forma, bella, distesa, tonica, e poi nel corso della giornata si trasforma, borbotta, si gonfia, sembra intensa. Spesso proprio arriviamo alla sera con quella voglia di sbottonarci la gonna o i pantaloni. E allora io vorrei sapere che cosa le capita, che cosa possiamo fare per aiutarla a mantenersi in forma. E in linea con noi stamattina prendiamo il nostro primo caffè con il dottor Luca Voledo, biologo, nutrizionista, esperto in naturopatia, direttamente dalla clinica del cibo di Milano. Dottora Voledo, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Dottora Voledo, intanto io vorrei che lei ci aiutasse a capire bene se è gonfia oppure se è un po' di ciccia che abbiamo magari, no, preso in questi mesi, in queste settimane in cui ci siamo dati da fare con pizze, focacce, pani, eccetera, cose buone. Il problema si gioca lì. È vero, questa è un'osservazione molto giusta, perché si può avere un po' di ciccetta, un po' di gonfiore o in alcuni casi tutte e due le cose. Quindi la pancia gonfia non è esclusiva delle persone che hanno sovrappeso, ma la prova è abbastanza facile. Basta pinzarsi con indice e pollice a livello dell'ombelico e vedere se resta una plica. Addirittura i nutrizionisti usano il plicometro per fare questo lavoro, ma bastano le dita. Se abbiamo questa plica di ciccetta sull'addome, è chiaro che questo è grasso. Ecco, e il grasso che è lì è un grasso che non ci piace, non è solamente un problema estetico, la pancia, l'abbiamo Bravissima. Sentito ripetere tante volte, facciamo un po' fatica a metabolizzarlo, perché insomma la pancia la mettiamo un po' in conto, soprattutto quando gli anni passano. In realtà, dottora Voledo, mi aiuti lei, perché il grasso che abbiamo a livello addominale è un pericolo per la nostra salute? Sì, è perfetta, questa è un'indicazione giusta che non si ripete mai abbastanza, è un indicatore molto forte del rischio cardiovascolare, proprio il grasso addominale. Magari le rappresentanti del gentile sesso sono più preoccupate dai cuscinetti sui fianchi, la prova costume, che è un grasso magari esteticamente più sgradevole, ma il grasso veramente pericoloso è quello che si accumula in zona vita, quindi a livello addominale, perché è proporzionale alla quantità di grasso viscerale, cioè quello all'interno che riveste gli organi. Allora qua diamo un'indicazione molto semplice ai nostri ascoltatori: prendete un metro da sarta, alzatevi la maglietta, la camicia, il golfe in piedi davanti allo specchio con i muscoli rilassati, misurate la circonferenza addominale all'altezza dell'ombelico. Ci sono due numeri che dobbiamo tenere sott'occhio. Nelle donne la circonferenza non deve essere superiore agli 88 centimetri, meglio ancora se inferiore a 80, e negli uomini invece non deve essere superiore ai 102 centimetri assolutamente, ma meglio ancora che sia sotto i 94 centimetri. Questi sono i numeri della salute per quello che riguarda la circonferenza vita addominale. Bene, dottora Voledo, allora facciamo quindi la prova con del rotolino, tiriamo fuori il metro, ma torniamo poi a parlare della nostra pancia e del gonfiore della nostra pancia che ci dà così fastidio. Ci sono anche tanti luoghi comuni, tante giustificazioni. Intanto molte persone pensano che la colpa sia dello stress, altri invece del consumo di frutta a fine pasto, oppure dell'abitudine o del desiderio di molte persone di consumare liquidi, soprattutto acqua gasata, durante il pranzo o la cena. Dottora Voledo, che cosa c'è di vero? Sono possibili cause oppure non c'entrano nulla con il gonfiore? Approfitto volentieri di questa occasione per dire chiaramente che è tutto vero a seconda dei soggetti, cioè tutto molto da personalizzare, da relativizzare. La frutta, tendenzialmente, quando le persone dicono la frutta va mangiata lontano dai pasti, non è oggettivamente vero, anzi anche dei vantaggi in mangiarla a fine pasto, ma nei soggetti che hanno particolare sensibilità, di solito sono persone che soffrono di una patologia che il medico definisce sindrome dell'intestino irritabile, che è molto comune, un disturbo funzionale che spesso si manifesta appunto con meteorismo, gonfiore addominale, ebbene in questi soggetti mangiare la frutta a fine pasto può aggravare l'accumulo di gas nell'intestino con una sensazione di gonfiore, quindi potrebbero, ma solo questi soggetti, mangiarlo lontano dai pasti come spuntino. Idem per il discorso acqua gasata. L'acqua gasata nel soggetto sano che non ha problemi non crea problemi di meteorismo, di gonfiore addominale, ma nei soggetti già sensibilizzati per altre cause potrebbe essere un'acqua da, come dire, consumare meno e privilegiare l'acqua liscia, quella naturale, perché può provocare anch'essa per i gas contenuti distensione gastrica e addominale. Un nemico invece di quelli sicuramente tra i principali per tutti è lo stress, ma lo stress nel senso di lo stress che ci porta magari nella pausa pranzo a mangiare un panino al volo troppo velocemente, inghiottire bocconi, non masticare, lo sappiamo tutti, anche i sassi, che ormai la prima digestione avviene in bocca e che lo stomaco non ha i denti e l'intestino neanche, quindi è chiaro che se nell'intestino arrivano cibi non ben predigeriti, è chiaro che il nostro intestino può avere come dire, qualche fastidio e manifestarlo con pancia gonfia e altri sintomi. Allora, dottor Avoledo, rimedi naturali, consigli, attenzioni, precauzioni per aiutare la nostra pancia a stare bene. Da che cosa cominciamo? Cominciamo sicuramente dal più importante, perché tra le strategie più efficaci per la pancia gonfia, soprattutto la pancia gonfia che non si risolve magari con rimedi domestici o quando si è già provato qualcosa per conto proprio, una delle scelte più importanti è quella di individuare una dieta giusta. L'intestino risponde bene con una dieta personalizzata. Una quindicina di anni fa hanno sperimentato una dieta particolare che si chiama dieta FODMAP, di cui so che avete già parlato in altre circostanze. È una dieta molto utile, limita i cibi ricchi di carboidrati a catena corta, praticamente delle piccole molecole di carboidrati che fermentano nell'intestino, opera dei batteri. Come ad esempio, dottor Avoledo? Ah, qua ce ne sono davvero tanti, sono sostanzialmente tutti i cibi che per altri versi sono anche molto sani, molto ricchi di fibre, quindi legumi, cereali integrali, cibi di cui parliamo tante volte, zucchero, cibi di cui parliamo tante volte anche in senso positivo, non dello zucchero ma dei legumi, dei cereali integrali. È un'alimentazione che va però assolutamente fatta dal nutrizionista, perché non va protratta per troppo tempo, anche se in internet si trovano dei modelli di questa dieta. È massimo non ci piace, vero dottor Avoledo? Soprattutto in un caso come questo, perché davvero possono avere anche degli effetti indesiderati, diete FODMAP portate per troppo tempo o gestite male. Quello che possiamo fare a casa, però un consiglio lo do, perché a me piace molto che le persone cominciano. Noi vogliamo che lei arrivi nelle nostre case, ci dia anche un po' dei consigli, ci accompagni. Certo. Due potentissimi, anzi uno sopra di tutti, che è il consiglio della nonna, ma il consiglio della nonna spesso aveva ragione. Verificate di masticare il cibo a sufficienza. Una masticazione affrettata è già abbondantemente in grado di rendere conto di tante pance gonfie. Dicevamo di prima il panino mangiato velocemente al bar nella pausa pranzo. Se semplifichiamo il lavoro dello stomaco, del fegato, del pancreas, dell'intestino, sminuzzando bene il boccone, insalivandolo con 10, 20, 30 masticate, vedrete che ridurremo già il rischio di pancia gonfia. Non è facile, ma conviene provarlo, dottor Avoledo, perché quando diciamo, è una delle abitudini che dobbiamo proprio cercare di in qualche modo correggere, perché la masticare a lungo sembra facile a dire così, ma bisogna mettercisi e impegnarsi. Verissimo, Nicoletta, è una delle abitudini che personalmente vedo più difficili nelle persone che seguono da acquisire, perché ormai è un automatismo, quindi dobbiamo davvero metterci lì meditando, c'è anche la meditazione masticata, e ovviamente cercando di non guardare la TV, di non leggere il giornale, di non sbirciare su Instagram mentre mangiamo, cioè quando si mangia, si mangia, magari mettendo anche giù le posate tra un boccone e l'altro. Vedete che questo è già un sistema economico, pratico, naturalissimo per mitigare il rischio di pancia gonfia. In più andate dal vostro amico erborista, farmacista con reparto naturale e vi fate preparare una bella e buona, perché anche gustosa, tisana di semi carminativi. Carminativi vuol dire proprio che in grado di eliminare l'eccesso di gas intestinali. Sono quei semi di erbe aromatiche come il cumino, il coriandolo, l'anice, il finocchio, che sono anche molto gustose, non serve nemmeno dolcificare la tisana. Si mette un cucchiaio per tazza di acqua calda, si lascia in infusione 10 minuti, si filtra e si consuma. E io suggerisco di farlo soprattutto dopo i pasti magari quelli più impegnativi. Si può anche preparare e portare a casa, portare in ufficio in una borraccia, e si consuma però non una tantum, ma due volte al giorno dopo i pasti, e soprattutto appunto dopo i pasti più critici. Magnifico, dottor Avoledo, grazie per questi consigli. Tra l'altro, dottore, spesso si crede che il problema della pancia gonfia sia un problema squisitamente femminile, invece non fa distinzioni di genere. Assolutamente non c'è alcuna distinzione di genere, gli uomini ne soffrono tanto quanto le donne, le cause sono esattamente le stesse. E anche qua do masticazione pettolosa, paste iperabbondanti o composti male, ma attenzione anche qua un tema di cui so che avete parlato e abbiamo parlato spesso, che è uno dei temi più moderni in medicina e anche in ambito nutrizionale, che è quello del microbiota intestinale. Certo. E questo riguarda uomini e donne, un'alterazione del microbiota intestinale, la cosiddetta disbiosi intestinale, quindi il popolamento microbico che vive nel nostro intestino può alterarsi per una serie di errori alimentari, di stress, di uso di farmaci, abuso di farmaci negli anni, e da comunità benefica che ci fa tanto bene, che ci aiuta anche a digerire, diventa una comunità di microbi che può provocarci qualche problema. I problemi di salute legati al microbiota sono tanti, compreso anche delle difficoltà innanzitutto di carattere digestivo, pancia gonfia, sindrome dell'intestino irritabile, alterazioni dell'albo, quindi evacuare troppo o troppo poco, eccetera, eccetera, eccetera. Dottor Avoledo, ci sentiamo presto, la ringrazio per essere stato con noi di Primo Mattino, buona giornata. Buona giornata, a prestissimo. A prestissimo, e ringrazio Peter Bescapé in regia alla parte tecnica, Alessandro Marco Tulli in assistenza, Laura Vanossi in redazione. Vi do appuntamento subito dopo il GR delle 12 per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca. Buonissima giornata da Nicoletta.